Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette: Guido Rossa è stato lasciato solo. Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui, e siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa: eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci. Ma c'è chi, come Pierluigi Baglioni, ammette di essersi scontrato con Guido Rossa, di aver rotto la sua amicizia proprio in seguito alla denuncia ai carabinieri del brigatista Francesco Berardi. Io subito, quando tornò dalla... Io più vecchio di lui, diciamo, io sono del 30, quindi ho visto la resistenza, ho visto la lotta antifascista, mio padre è stato al confine di Ventotene, quindi insomma ero, masticavo un po' più di lui, generazione postbellica, ne avevo un po' più il sentore. Io quando tornò dalla tenenza dei carabinieri e che raccontò che aveva firmato lui, perché io gli dissi subito: ma guarda che qua sei estremamente in pericolo, insomma credetti di avvisarlo. Lui però prese queste mie parole non come un amico che ti mette sull'avviso, ma quasi come un'intimidazione, come un giudizio negativo sul suo operato, per cui mi rispose male. E allora, rispondendomi male, poi si interruppero i rapporti, no? Io mi accorsi che lui l'aveva presa male, che non condivideva la mia posizione, sembrava quasi che si fosse responsabile un po' tutti di questa sua situazione, che era molto, ripeto, molto difficile, e non ci parlavamo più. Mi dispiace, si ruppe un'amicizia, ecco, su questo episodio si ruppe l'amicizia. Però io vi devo confessare che via via che i suoi occhi, perché quando ci si incontrava, e ci si incontrava spesso, eravamo nello stesso reparto, ci guardavamo negli occhi, io non abbassavo i miei, lui non abbassava i suoi. Se all'inizio i suoi occhi erano fieri, come dire, hai visto cosa ho fatto, lentamente via via che passava il tempo i suoi occhi diventavano sempre più tristi, malinconici, e alla fine li trovai persino dolci nei miei riguardi. Io dico, ci siamo riconciliati prima del disastro, diciamo. Al termine dei funerali di Guido Rossa i lavoratori tornano a casa con i loro treni. I loro occhi sono lucidi, ma le parole sono piene di speranza. I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo non riuscirà a passare nel nostro paese. Questa perlomeno è una speranza che io voglio esprimere. A distanza di molti anni da quell'omicidio c'è ancora chi non intende dimenticare il sacrificio di Guido Rossa. Giuseppe Ferrara, il regista del film Guido che sfidò le Brigate Rosse, ha raccolto in un'ora e mezza di cinema l'identità spirituale di un operaio che è andato a morire rifiutando la violenza come mezzo di fare politica. Rossa aveva una grande lungimiranza, non a caso è stato così tenace e così... attaccata la sua idea di combattere le Brigate Rosse da allora con tanta determinazione, rimettendoci la vita, perché capiva di aver ragione. Ecco, forse tardivamente, sono passati 26 anni dalla sua morte, il cinema si accorge di lui. Perché l'ho fatto? Perché l'ho scelto? Ho letto nel 25ennale, un anno fa, un articolo su un giornale, un bell'articolo di Cipriani, mi ricordo. E mi accode, ma questo è un film straordinario, di una grande attualità, di una grande presenza politica in questo paese ancora con le ceneri piene del calore degli eversori un po' folli. Mi ricordo comunque di una affermazione di Costa, un rapito delle Brigate Rosse, il nipote del grande armatore genovese, no? Mi ha detto: Ferrara, lei farà un film dove le Brigate Rosse avranno una epica. Ecco, questo è il rischio che spero di evitare e di non correre. Non voglio fare nessuna epica, ecco, io ho raccontato la mafia in modo contrario a quella, diciamo, più famoso film del Padrino, cioè i miei mafiosi sono pieni di mosche che gli camminano sul volto. Ecco, i brigatisti non hanno le mosche, però hanno qualcosa di perverso, che non ha Rossa. Rossa è un uomo normale, è un uomo che vuole lavorare, vuole che la democrazia si affermi. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi, alla produzione Fabio Cantadori.